Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo da una notizia che arriva da oltreconfine questa sera, che voglio raccontarvi perché è una di quelle curiose. Ebbene, Google, lavorando in collaborazione con la Duke University, starebbe per finanziare una centrale elettrica che funziona, passatemi il termine, insomma, a cacca di maiale. Sono 9.000 maiali per la precisione. Insomma, quando si dice che del maiale non si butta niente. Beh, insomma, dovete sapere che le feci dei maiali, quando si decompongono, producono molto metano. Catturare e bruciare questo metano ha due importanti benefici. Il primo è ovvio ed è la produzione di energia. Anche se è una produzione modesta, con questi 9.000 maiali si possono alimentare 35 case. Parliamo di case americane, saranno circa una settantina di case europee. Ma l'altro importante beneficio è che il metano non viene immesso in atmosfera. Il metano è un potentissimo gas serra, 20 volte più potente della CO2. Tanto che l'effetto complessivo della rimozione di questo metano dall'atmosfera è equivalente a togliere 900 auto dalle strade, in pratica una ogni 10 maiali. A dire il vero, l'utilizzo del gas prodotto dalle feci di maiali è un'abitudine molto diffusa anche da molto tempo in Asia, soprattutto in Cina, dove ci sono moltissime famiglie che hanno il loro fermentatore casalingo. Il dato però più interessante di questo progetto è che è stato sviluppato un prototipo tecnologicamente avanzato e che chiunque può liberamente copiare questo progetto e utilizzarlo come meglio crede. E adesso cambiamo argomento. Dunque, ieri sera abbiamo parlato di Veloce, una piattaforma logistica che consegna le merci all'interno della zona traffico limitato di Vicenza con una piccola flotta di veicoli elettrici. Questa Veloce è una società a capitale misto pubblico-privato e le cose dovrebbero funzionare più o meno così. Tutti i corrieri che devono raggiungere i negozi del centro conferiscono i pacchi a un centro unico di raccolta che attraverso questi mezzi elettrici li consegna a tutti i destinatari dentro il centro storico. Naturalmente in questo modo si riducono le emissioni di particolato e soprattutto si riduce il via vai di mezzi per le vie della città. Questo è lo scopo per cui nasce questo progetto, città che tra l'altro è protetta dall'UNESCO. Il progetto però è stato contestato piuttosto fortemente dall'ICAI, che è l'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali. E quindi sentiamo dalla voce del presidente di ICAI, Marco Carenini, che cosa c'è che non va in questo progetto. Buongiorno intanto, Carenini. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma innanzitutto non è che noi siamo contrari alla piattaforma logistica, purché non sia monopolistica. L'utilizzo delle piattaforme logistiche possono essere, a mio giudizio, uno strumento proprio per ridurre l'ingresso a quei mezzi che tutto sommato ad oggi non sono totalmente produttivi. Mi riferisco in modo particolare al conto proprio. Per cui quei mezzi che vengono utilizzati principalmente per quelle che sono le singole consegne che vengono fatte presso i vari negozi, ma che non hanno niente a che vedere con quello che oggi è il mondo del Corriere Espresso, perché quello che noi consegniamo è tutta merce ad alto valore aggiunto e quindi le nostre aziende e i nostri clienti, o meglio, non chiedono la semplice consegna della loro merce, ma sono consegne che hanno delle richieste a volte ben specifiche, dove nel momento che si tenta la consegna automaticamente abbiamo anche da ritirare nello stesso momento un ulteriore pacco con richieste ben specifiche da parte del cliente, che possono essere la verifica del prodotto, il tipo di imballo specifico che viene richiesto dal cliente per rispedire il pacco e quant'altro. Ecco, quale può essere la soluzione? Quindi si riesce contemporaneamente ad ottenere i benefici di questo modello, che ci sono dal punto di vista, soprattutto secondo me, del via vai di mezzi, con le esigenze insomma dei corrieri e anche di chi usufruisce dei servizi dei corrieri? Guardi, il nostro modello di distribuzione oggi viene preso proprio come esempio dai vari studi fatti dalla Commissione europea, dove a fronte di un 25% di volume che i Corrieri Espressi consegnano, noi utilizziamo soltanto una flotta pari al 6% dei mezzi, a differenza proprio di quel invece che è il conto proprio, che con un 30% di volume consegnato utilizza però il 52% di mezzi all'interno di un centro storico. Per cui ecco che la piattaforma logistica potrebbe essere uno strumento da utilizzare proprio nel tentare di ridurre questo ingresso a questi mezzi che non sono totalmente produttivi. Ecco. Grazie Carenini. Grazie a voi e grazie dell'attenzione. Arrivederci. Beh, insomma, avete capito quanto può essere complicato affrontare un problema di efficientamento in campo logistico. Torneremo su questo argomento. Ma prima di lasciarci, voglio darvi un'altra notizia che arriva sempre da oltre confine, questa volta però dal Belgio, dove si è sperimentato un modello di integrazione tra cogenerazione e auto elettrica. In pratica è come se l'auto elettrica diventasse un componente aggiuntivo periferico dell'impianto di riscaldamento. Mi spiego. Abbiamo parlato spesso qui a Mr. Kilowatt di come l'efficienza energetica non dipenda solo dalle singole tecnologie, ma anche moltissimo da come queste vengono messe insieme. E qui abbiamo appunto un buon esempio. La cogenerazione, ve lo ricordo, consiste nel produrre energia elettrica, per esempio con un motore, e contestualmente utilizzare il calore di scarto per il riscaldamento. Questo permette di sfruttare al meglio i combustibili con un incremento di efficienza anche molto significativo. Il problema qual è? Che in molti casi il fabbisogno di elettricità e di calore non coincidono e quindi non si riesce di fatto poi a sfruttare questa potenzialità. Ecco allora che se quando avete bisogno di riscaldamento producete energia elettrica con cui caricare le batterie dell'auto, il problema è risolto. Così facendo, secondo la principale società belga produttrice di energia che ha svolto questo esperimento, pensate un po', si risparmia il 42% di energia primaria. Bene, con quest'ultima notizia vi lascio, l'appuntamento è a lunedì.